Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica e anche buona estate a quanti ci ascoltano sulle onde di questo Danubio Blu. Iniziamo l'incontro di oggi con Ulrico Carlo Oepli, un nome che non ha bisogno di presentazioni, forse ha bisogno di qualche spiegazione. Come mai il Danubio Blu? Ma perché mia madre era una triestina, cresciuta poi, c'era la prima guerra mondiale in parte a Wiener Neustadt vicino a Vienna. E quindi un po' di ricordo viennese. E poi mia madre suonava bene, era diplomata in pianoforte. Ah, capito. E invece Ulrico Carlo Oepli, editore, è originario della Svizzera, la famiglia Oepli è originaria, sì, della Svizzera. Di dove? Siamo originari del cantone di Thurgau, della Turgovia, dove la capitale si chiama Frauenfeld e noi siamo originari di un piccolo paesino che si chiama Tuttwil, frazione del villaggio di Venghi. E a un certo punto uno della famiglia Oepli, mi pare proprio Ulrico Oepli, è venuto a Milano. Sì, il mio avo, che poi era il prozio di mio padre, dopo aver fatto un apprendistato, era il sesto figlio di una famiglia benestante di agricoltori di questo paese di Venghi, dove c'è anche una via Oepli, è andato, dopo una breve parentesi di apprendistato, a Zurigo, in una libreria, e poi è arrivato. E questo dopo varie tappe a Milano. È avvenuto 140 anni fa. È avvenuto esattamente. Beh, è avvenuto prima, cioè l'azienda ha 140 anni. Se non sbaglio, Ulrico Oepli ha lasciato la sua famiglia in Turgovia 10 anni prima, sì. E quindi è venuto a Milano, ha acquisito un'officina di legatoria in pratica. Lui è venuto a Milano che aveva 25 anni, aveva cominciato a lavorare a Zurigo, poi a Breslavia, poi anche a Trieste. A 14 anni, si cominciava presto. Quindi a metà dell'Ottocento è venuto a Milano e ha preso appunto questa officina, questo laboratorio artigianale. Sì, lui è esattamente arrivato a Milano dunque era il giorno di Sant'Ambrogio del dicembre 1870 e avendo acquistato per corrispondenza la libreria, una piccola libreria a Milano, che aveva acquistato una cosa straordinaria per corrispondenza. In largo Corsia dei Servi, mi esatto, pare che sì. Era una volta che poi è stato abbattuto. Poi è diventato il Corso Vittorio Emanuele. Corso Vittorio Emanuele e poi si è trasferito dove siete adesso come libreria Oepli, una delle maggiori librerie di Milano. Sì, dopo il Corso Vittorio Emanuele c'è stata una parentesi durante la guerra in Corso Matteotti. Una parentesi in via Brera, eravamo ospiti di un libraio, di un collega Piantanida, a cui va la mia grande riconoscenza perché ospitò il giorno dopo la distruzione totale, siamo i bombardamenti del 43 dell'azienda, e poi la libreria rinacque grazie a mio padre in via Oepli, in quella che oggi si chiama la via Che Oepli. Si chiama via Oepli in omaggio proprio alla vostra presenza a Milano. In omaggio a Ulrico Oepli e anche al fatto che Ulrico Oepli ha donato la città di Milano al planetario. E già, uno adesso che ci sono nuovi assessori alla cultura a Milano, ci auguriamo che questo venga valorizzato. Planetario venga valorizzato sempre di più. È uno dei pochi planetari, tra l'altro, esistenti non solo in Italia, ma nel mondo. È l'unico planetario in Italia, perché il planetario di Roma purtroppo non funziona molto bene. E quindi lei è la terza generazione Io sono la quarta. Mia figlia che ha visto qui con me è già la quinta, però la sesta è già pronta. È già pronta. Quindi ci sono otto nipotini. Ed è obbligatorio per gli Oepli fare gli editori. Sì, direi che è l'unico sistema per cui l'azienda riesce ad andare avanti. Un'azienda che comunque è cresciuta, ha una sede sola, una libreria sola, però è cresciuta negli ultimi tempi, magari ne parleremo anche più avanti, anche attraverso internet. È un'azienda che ormai... Sì, noi siamo editori e librai. Adesso nel mondo del libro è arrivata questa cosa fantastica, elettronica, e nel mondo del libraio è arrivato l'internet. Quindi vendete libri tramite internet. Vendiamo libri 24 ore su 24 tramite internet. E questo per mantenere però vivo anche il fabbricare i libri. Ah beh, quei libri bisogna sempre fabbricarli, o con la tipografia o con apparati elettronici, bisogna, insomma, ci vuole un autore che pensa, ecco, più che fabbricare bisogna un cervello, ci vuole. Qual è stato il primo libro edito dalla Oepli? Il primo libro edito dalla Oepli è stata La grammatica dei verbi elementari francesi. Dalla, nel 1871. E poi si è specializzata nel campo soprattutto scientifico. Sì, noi siamo sempre, questa è stata la grande intuizione di Ulrico Oepli, del fondatore, di essere un editore specializzato, scientifico-tecnico. Quindi con manuali scientifici tecnici sono diventati poi dei manuali sia di insegnamento sia per le professioni. Sì, l'insegnamento, la professione, e anche per quelle persone che vogliono istruirsi, approfondire. E ci sono manuali che mi risulta hanno avuto decine di edizioni successive, sono ancora sulla base di manuali originari di qualche decennio fa. Sì, cambiano ogni due anni perché la scienza, la tecnica, certo, cambia. Uno dei nostri manuali più famosi, conosciuto in tutto il mondo, è il manuale dell'ingegnere, che ormai è l'84esima edizione. Ecco, l'84esima edizione. Però poi c'è anche il manuale di toscologia, oppure il manuale delle abbreviazioni medievali latine, che noi amiamo molto questi manuali di base perché non cambiano mai, e come voi sapete qui a 24 ore è bello pubblicare qualcosa che non cambia, che mai, non cambia mai e si vende sempre. Sì, c'è sempre una domanda, sì, su questi libri, appunto, che restano come i fondamentali in fondo per la scienza. Che catalogo avete adesso? Quanti sono i libri in catalogo? Ma in catalogo abbiamo circa un 15.000 titoli che si possono acquistare da un giorno all'altro. Sì, beh, il catalogo totale, poi il catalogo, diciamo, annuale esistente sono circa 1200 titoli. E qual è il primo libro che lei, Ulrico Carlo Oepli, ricorda di avere voluto? Ma io mi ricordo che avevo voluto un manuale sui surgelati, avevo un 19-20 anni, adesso ne ho molti di più perché sono un nonno. Quindi possiamo dire 50 anni fa. Sì, 50 anni fa c'era questo problema che arrivavano i surgelati. Adesso, arrivando qui in questa bella serie di 24 ore, ho visto, è diffusissimo questa catena, adesso mi sfugge il nome, ma lei la conosce, dove il surgelato ormai trionfa. Ecco, surgelati, quindi un manuale che ha avuto successo poi. Ma devo dire che per un 4-5 anni ha funzionato abbastanza bene. Quando c'era ancora una poi novità. Poi dopo si è sciolto anche lui. Si è sciolto anche. Beh, anche le novità vanno poi rinverdite e sì, così via. Quindi adesso c'è sempre questo filone, appunto, dei manuali tecnici e tecnologici, ma affiancate anche altri libri di altre, sì, caratteristiche. Oggigiorno noi li chiamiamo manuali, ma in realtà sono dei libri di formato molto maggiore, non stanno più in una mano, ma sono dei libri tecnici e scientifici. Romanzi non ne avete mai? Noi l'unico romanzo che abbiamo pubblicato è I Promessi Sposi. No, abbiamo una collana di classici da sempre. Anche la Divina Commedia, abbiamo, mi sembra. Divina Commedia, Promessi Sposi, Machiavelli, ma non andiamo oltre. Cioè, bisogna è un altro mercato. Per entrare nel catalogo Oepli bisogna essere dei classici. Bisogna essere dei classici, appunto, essere o Dante Alighieri o Alessandro Manzoni. Però in realtà è molto bello, quello devo dire, è stata ancora un'intuizione di chi mi ha preceduto, avere in un catalogo scientifico-tecnico così la luce, diciamo, anche l'eleganza di avere Dante Alighieri o Manzoni. Certo. Bello, insomma, uno può presentarsi al mondo. Anche perché la tecnica poi deve essere comunque messa in atto da una persona, e una, esatto, persona mette in atto la tecnica se riesce ad avere anche un po' di umanità, e forse questi classici riescono a dare umanità. Esatto, sì. In questa prospettiva, ecco, la tecnica certamente aiuta a fare business, però non allargare, non gli è mai venuto magari la tentazione di allargare un po' gli interessi, magari anche ad altre cose, se non rispetto ai libri? Direi che tra scienza e tecnica il panorama è immenso. La letteratura è un lavoro diverso, di ispirazione, di vendita, e anche molto rischioso. Adesso si legge meno che nel passato, però. Ma direi che in realtà si legge un po' di più, per fortuna. Non si legge tanto quanto noi vorremmo, quanto gli editori, i librai vorrebbero, ma. Incontri. Ancora con le note del Danubio Blu riprendiamo questo nostro incontro di oggi. Buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano con Ulrico Carlo Oepli, un nome che è tutto un programma, presidente della casa editrice libraria Ulrico Oepli, una casa editrice che ha festeggiato i suoi 140 anni, presente a Milano, ma ormai presente, diciamo, a livello mondiale, perché uno dei punti di forza è anche essere una casa editrice che ha saputo affrontare il mondo dell'ebook, il mondo della vendita online, quindi è una piccola Amazon italiana, la chiamate anche? Sì, in certo senso. Siamo tra i piccoli Amazon milanesi. Amazon milanesi. Comunque ormai metà del vostro fatturato deriva dalle vendite online. Beh, un po' meno, ma quello che è stato impressionante con la vendita online che ha raggiunto, sta raggiungendo il fatturato della libreria. E questo, ecco, dimostra in fondo poi che i libri possono essere venduti anche ai giovani. Dicevamo alla fine della prima parte che... Diciamo che possono essere venduti a quelli che hanno o il palmare o il computer. Beh, ma i giovani ormai ce l'hanno tutti, sono tutti... Beh, ma poi quelli che stanno da matti sul computer, non ha tanto che sono i... Over 30, insomma. Ah, sono over 30. Quindi bisogna anche abituarli a raggiungere il libro attraverso internet. Ecco, forse è significativo che tra le novità di quest'anno vi sono stati alcuni libri tecnici ma divulgativi insieme. Sì, quest'anno, come già era successo, devo dire, negli anni precedenti la guerra, abbiamo pubblicato alcuni libri, sì, tecnico-scientifici, ma molto divulgativi. Steve Jobs... Zuckerberg, fondatore di Facebook, che improvvisamente hanno raggiunto delle tirature a cui noi non eravamo abituati, 30-40 mila copie. Sì, forse il libro tecnico si diluisce più negli anni, questi sono fenomeni nell'immediato, anche perché sono fenomeni che, su cui c'è un grande interesse da parte delle persone, vedere come Steve Jobs o stesso sì, Zuckerberg. Poi tutti, siccome tutti vogliono imitare Steve Jobs e Zuckerberg, allora c'è una corsa. Ecco, uno su mille ce la fa, forse, sì, esatto. Come dice la canzone. Forse anche molto molto di più, insomma. Però ecco, significativo che vi state un po' aprendo anche a queste biografie, queste illustrazioni, sempre però con questa ottica di stare sulla tecnologia, sull'innovazione. Sì, con l'ottica di stare sempre nel nostro solco, perché sappiamo che uscire dai solchi, anche specialmente perché... nel libro, è sempre molto pericoloso. Avete un'immagine da difendere. Abbiamo, come dite oggi, un brand. Un brand da difendere, che è un brand ancora importante, un brand familiare, un brand appunto che forse risente un attimo anche dell'origine svizzera. Beh, è chiaro che l'origine svizzera ci lega completamente al centro dell'Europa. La mia mamma, che è vissuta vicino a Vienna. Insomma, siamo ben legati all'Europa, cosa che ci aiuta molto. Insomma. Beh, poi specialmente pensando adesso alla povera Grecia, che essendo un po' i confini dell'Europa... Cioè, ha qualche problema. Ha qualche problema. Ma lei si sente ancora svizzero? Eh beh, con quel nome lì sì. E come vive uno svizzero a Milano? Beh, vive molto bene, perché l'ideale per uno svizzero è vivere all'estero, no? Perché conosce i difetti degli svizzeri e ha tutti i vantaggi dell'Europa, del mondo. Poi la Svizzera è qua vicino, uno può sempre andare a comprare un po' di cioccolato. Fare affari in Italia è un po' più complicato che farli in Svizzera, forse. Beh, devo dire una cosa, come dire, semplificante. Fare affari nei libri è un po' uguale in tutto il mondo. I grandi problemi del libro in Italia sono il diritto d'autore, la fotocopia, il trasporto postale. Ma insomma, queste cose speriamo che migliorino. Altrimenti non ci sono grandi differenze tra fare l'editore a Francoforte, a New York o a Milano. Forse fare impresa, al di là dell'essere editore in Italia. Beh, fare impresa, come lei sa, leggendo i giornali, è più complesso. Bisogna avere una buona preparazione. Ero poco fa all'istituto, il Pio Albergo Trivulzio, grande istituzione milanese che ha 600 anni, e il medico che mi stava mettendo a posto un ginocchio mi ha detto «E poi c'è il corso alla Bocconi». Dico, ma lei è un ortopedico, cosa fa la Bocconi? E devo spiegare la complessità di una struttura. Allora improvvisamente ho pensato al nostro sistema economico italiano. È un sistema complesso che ci si può sorprendere come continua a funzionare sotto un certo punto di vista. Ecco, forse tornando all'essere svizzero, lo svizzero forse fa qualche fatica ad adattarsi a un sistema in cui l'arte di arrangiarsi in fondo è uno degli elementi fondamentali. Beh, però lo svizzero, sa com'è, è un po' come l'olandese, si abitua a mari diversi. C'è una domanda che io faccio molto spesso ai nostri ospiti, forse non so se posso farla anche a lei. Se non avesse fatto l'editore, cosa avrebbe fatto? Ma poi lei, essendo della quarta generazione, forse, come dicevamo, era un obbligo fare l'editore. Ma se per qualche 5 minuti fosse stato completamente libero, cosa avrebbe voluto fare? L'aviatore, l'avvocato? No, a me piacciono molto le montagne. Credo che avrei fatto quello che studia i ghiacciai, il geologo, il glaciologo. Glaciologo. Sì, infatti sono affezionato a un piccolo ghiacciaio che c'è lì in Appennino, che sta morendo. Spero che duri. Appunto, adesso lo coprono, sarebbe farlo sopravvivere. Un mestiere un po' in via di estinzione, perché i ghiacciai si stanno ritirando. Sì, bellissimo. Però il geologo può andare. Resta il geologo. Comunque. Trovo anche il petrolio. Sì. Lei è stato anche all'interno, forse ancora, dell'Associazione Italiana degli Editori. In Italia si dice si stampano troppi libri. No, se ne stampano troppo pochi. Sì, io sono stato per lunghi anni consigliere, addirittura tesoriere. Adesso probiviro. Da nonno sono probiviro. Questa cosa che si dice fanno tanti libri è una bufala, ecco. Perché se ne fanno circa 60-70 mila, ma meno male, ecco, perché così uno può scegliere. Può, no? Scegliere. Come ci sono tanti giornali, tante televisioni, uno la scelta. Forse si scrivono tanti libri che poi restano inediti. Vabbè, quello succede, meno male. Voi avete molte sollecitazioni da parte di autori possibili per pubblicare? Sì, libri. Capita continuamente, 3-4 volte alla settimana, tra l'altro quello che... È anche simpatico che arrivano anche persone che assolutamente sono lontanissime dalla nostra specializzazione, libro scientifico-tecnico. E... C'è una proposta bizzarra che lei ricorda come qualcosa, dice, ma che ci azzecca questa proposta con la nostra tradizione? Beh, se, quello che è sempre bizzarro sono quelli che scrivono poesie, che poi forse sono ottimi, ma insomma, sì, non è, noi forse, non le pubblichiamo. Non è il vostro mestiere, esatto. Ma capita magari di leggere qualche manoscritto di... Ma devo dire che per così tale spesso si guarda, ecco. Quindi, ecco, anche la tentazione di pubblicare qualcosa di strano rispetto al vostro brand non è mai venuta, però. No, perché c'è dietro l'azienda, bisogna stare attenti. L'azienda è una cosa importante. Sì. Allora, abbiamo parlato di Svizzera, abbiamo parlato di Vienna, abbiamo parlato di Milano. E cosa consiglia lei a un giovane che entra nella sua azienda? Diciamo che può entrare e fare il libraio. Ovviamente al primo posto sono le sue figlie, che hanno in mano l'azienda adesso, e sì. I suoi nipoti. Cosa dice ai suoi nipoti che devono fare i librai? Dico di leggere un po' di libri, bisogna leggere per fare l'editore. Poi bisogna leggere molti cataloghi e poi bisogna lavorare. Bisogna lavorare. È un giovane che vuole fare il libraio o l'editore, cosa direbbe? Di avere una buona preparazione culturale. Ormai ci sono dei buoni corsi per librai. Abbiamo una stagista adesso che vuole aprire una bella libreria sulla superstrada che collega Brescia alla Val Camonica. Alla Val Camonica. E allora, ecco, questa donna sta facendo le cose giuste, si è laureata bene, conosce bene 3 lingue, ha fatto un buon corso di librai, fa degli stage e sarà bravissima. Quindi si può diventare librai anche senza avere un padre libraio? Ah, bisogna, altrimenti rimaniamo solo noi, che è un po' triste. Guardiamo un po' al futuro, come noi giovani dobbiamo guardare al futuro. Come vede tra 10 anni, tra 20 anni il libro? Ci sarà ancora? Sì, io vedo una bella convivenza, anche perché mi ricordo il vecchio McLuhan, anche lui un 40 anni fa diceva ci sarà una buona convivenza tra l'elettronica e la carta. Tra l'elettronica e la carta, quindi la carta ha... Comunque, anche per i giornali, si dice che ci sarà nel 2040 l'ultima copia del quotidiano, anche i giornali le rivede. Ma io credo che anche il giornale, anche lì ci sarà una convivenza, no? È talmente bello, puoi mettersi un giornale in tasca e fermarsi nascostamente, non so, su una panchina a leggerlo, che il giornale resiste. Poi il giornale serve anche per avvolgere i libri. Sì, appunto. Oltre che le patate. Diceva Indro Montanelli, serve anche per uccidere le mosche. Figuratevi se riuscite a uccidere una mosca con un computer. No, il giornale ha tante funzioni. Naturalmente bisogna dire anche che l'avvenire è sempre incerto, ma io sono molto convinto che carta e elettronico conviveranno. E questo nostro paese. E poi anche la radio, mi raccomando, ascolto sempre Radio 24. Questo sicuramente, grazie. Ma questa nostra Italia, vista da un italiano svizzero, come vede questo paese un po' complicato. Che vuole... Beh, il paese è complicato, però adesso pare che Draghi sarà lui a Francoforte. Certo. Basta che rimaniamo attaccati all'Europa, siamo a posto. Quindi... Non bisogna fare come i greci, ecco, stare un po' attenti. Essere un po' più solidi, un po' più... Ma poi l'Italia ha grandi tradizioni, ha grandi capacità, ha anche un grande risparmio, forse bisognerebbe che risparmiare magari un po' meno e comprare qualche libro in più. Vabbè, quello sempre. Andare anche a scuola. Andare anche a scuola. Anche l'investimento dell'istruzione è una cosa fondamentale. Vabbè, è tutto. È tutto. In questa fase poi in cui bisogna capire quello che avviene e magari attraverso che qualche manuale... Se lei potesse consigliare un libro dei suoi manuali, voglio dei manuali tecnici, a un giovane che volesse affrontare il futuro, manuale dell'ingegnere. Ma no, io consiglierei, vabbè, ma non è ingegnere, chiaro, uno poi certo, uno come fare deve ingegnere. Studiare una cosa rapidamente, entra in libreria, trova un bellissimo manuale del suo soggetto, ma se no consiglio un libro che in famiglia ci siamo convinti che porta fortuna, un libro pubblicato ancora da mio nonno, che però mio padre amava molto, che si chiama Ape Latina, sono i proverbi latini. Quindi, che servono per il futuro. Come vede sono legato al latino. Al latino. Addirittura a Roma in questi giorni. Dalla Turgovia alla mentalità classica a Roma. Si ricorda uno di questi proverbi? Non dimentichiamo che Svizzera è chiamata CH, Confederatio Helvetica. E quindi ha alla sua base anche una radice classica latina. Ringraziamo, grazie a Ulrico Carlo Oepli di essere stato con noi questo pomeriggio. Auguri per la sua impresa. Chi fa libri è sempre una persona meritoria per la società, così come ringrazio Paolo Corleoni in regia e Anita Panizza in redazione. Ancora buona domenica. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e arrivederci.